Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, benvenuti, grazie per essere con noi. Iniziamo insieme questa settimana. In regia abbiamo Pietro Lacorte, in redazione come sempre Laura Vanossi. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Hai mal di schiena? È normale, sei un uomo. Smagliature addio o quasi. Succo di frutta, bevi quello giusto per te. Tutti soffrono prima o poi di mal di schiena, è normale, come abbiamo detto un po' provocatoriamente nel titolo, è uno dei prezzi che si paga a vivere da bipedi. Comunque, dato che ormai non è possibile tornare a camminare a quattro zampe, non resta che fare di necessità virtù. Intanto iniziamo a vedere il nostro dolore sotto un'altra luce, questo può aiutare. Infatti anni di ricerche hanno dimostrato che per tutte le patologie, ma per il dolore alla colonna in particolare, la sua entità dipende anche dallo stato d'animo con cui viene affrontato. Allora, insomma, anche in questo caso vale il detto cuor contento al ciel l'aiuta. Allora iniziamo la trasmissione con una buona predisposizione d'animo. Non preoccuparti, le cause gravi di mal di schiena sono rarissime, meno di un caso su 300, e basta una visita medica ad individuarle. Quindi rasserenati, non stai diventando invalido, mai nessuno lo è diventato per un semplice mal di schiena. Cerca di essere paziente. È normale per chi soffre di mal di schiena avere ogni tanto dolori o essere bloccati per un breve periodo di tempo. Non intristirti. Il dolore ha un'intensità variabile e anche quando aumentano significa che la colonna si stia rovinando sempre di più. Vivi il più normalmente possibile. Non devi fare l'eroe, perché rischieresti di incrementare il dolore, ma impara a dosare le tue forze. Concediti un po' di riposo per permettere al tuo corpo di recuperare nel modo migliore possibile, con il movimento. Aggiungo anch'io un consiglio: chiamate subito al nostro numero verde 800 24 0024 oppure mandate un messaggio al 349 238 6666. La vostra schiena vi ringrazierà e forse, lo spero, anche il vostro umore. Teniamolo sempre in alto. Ci aiuteranno oggi il professor Gianluca Melegatti, che è qua in studio con me, è tornato a trovarci. Buongiorno, che bello. Buongiorno, Nicoletta. Responsabile del centro di riabilitazione sportiva dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e responsabile anche dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. Come è andata? Non è andata granché? No, direi no, non benissimo. Non ci pensiamo. In linea con noi abbiamo il professor Felice Di Domenica, direttore del Dipartimento di Riabilitazione Ortopedica dell'Istituto Gaetano Pini. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, saluto il mio collega, amico Melegatti e voi tutti. Ciao Felice. Allora, ciao, noi ciao. Siamo pronti, vi mettiamo a disposizione la nostra schiena, anche un po' il nostro umore, aspettiamo le telefonate dei nostri ascoltatori all'800 24 0024. Una mela al giorno. Buongiorno a tutti. Mi permetto di suggerire un argomento che mi interessa molto, le smagliature. È un problema estetico che interessa a tante persone, di cui si legge poco, con informazioni spesso contrastanti e prevalentemente di carattere pubblicitario. Mi piacerebbe invece un punto di vista qualificato e autorevole. Grazie per l'attenzione. Manuela. E allora noi oggi cercheremo di aiutare la nostra Manuela. Lo faremo insieme alla dottoressa Valeria Dente, dermatologa dell'IDI, l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dottoressa, perché vengono le smagliature? Ci sono tipi di pelle più predisposti di altri? Oppure uno stile di vita che in qualche modo può farle insorgere? Assolutamente sì, in quanto le smagliature sono delle cicatrici e si formano quando il tessuto cutaneo, sottoposto ad una eccessiva tensione, perde la sua elasticità e subisce una lesione dovuta allo sfibramento sia del derma sia dell'epidermide. Quindi ci sono sicuramente numerosi fattori, primo fra tutti una predisposizione genetica, quindi una struttura della cute particolarmente sensibile a questi stiramenti. E chiaro che ci sono persone che effettuano delle diete drastiche o che degli aumenti di spesa importanti, per cui questo effetto fisarmonica è responsabile di una forte tensione dei tessuti che determina la formazione della smagliatura, o ancora per esempio donne in gravidanza che soprattutto intorno al quinto mese, a causa della tensione dell'addome, possono determinare la formazione di smagliature sulla regione dell'addome e dei fianchi, oppure pazienti

Esistono poi naturalmente i mal di schiena differenti, c'è la lombalgia comune che è il mal di schiena specifico, spesso è dovuto a un problema muscolare, mentre esistono dei mal di schiena specifici che sono quelli dovuti a patologie un po' più complicate, come per esempio il restringimento del canale lombare attraverso cui passano le radici nervose, per esempio situazioni di instabilità della colonna che possono interessare ragazzi anche giovani, patologie come l'ernia del disco, vale a dire patologie che interessano il disco intervertebrale, che è quel cuscinetto ammortizzatore che sta tra vertebra e vertebra. Quindi voi da casa descriveteci il vostro dolore e i nostri esperti si prenderanno cura della vostra schiena. Diteci se vi fa male ogni tanto, spesso, quando, cosa fate, cosa non potete fare, come lo affrontate. Professor Di Domenica, possiamo aiutare i nostri ascoltatori anche capendo esattamente dove si localizza il dolore, magari cercando di intervenire subito. Qualche esercizio? Sì, sicuro. Quello che diceva l'amico Gianluca sulla classificazione è perfetta. Volevo solo dire che bisogna ricordare che il mal di schiena è un sintomo, non è una malattia, come la febbre, per intenderci. Sì. Quindi è una qualcosa che può riferirsi a tantissime cause, che poi vanno da cause importanti a cause meno importanti. Quelle meno importanti legate alla postura, a posizioni scorrette che prendiamo durante le ore di lavoro o l'eccessivo tempo che passiamo alla guida delle macchine, queste sicuramente traggono vantaggio da una buona e sana attività fisica. I muscoli che vanno, diciamo, rinforzati, diciamo così, su cui lavorare sono gli addominali, i paravertebrali, con esercizi molto semplici, fatti magari imparando, andando in palestra, a ripotenziare i bassi e gli alti addominali, i paravertebrali usando tecniche di stretching, esercizi di respiratori, insomma ce ne sono tantissimi, ma sono tutti esercizi che vanno fatti con non dico con un personal trainer, ma almeno con una persona, che può essere un fisioterapista o un massofisio, che sappia cosa fare e cosa non fare, perché anche in questi casi, se commettiamo degli errori di sovraccarico, possiamo creare noi stessi dei danni alla colonna vertebrale. Vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. Do la precedenza a Dal, che ci chiama da Novara. In gravidanza non ho avuto problemi perché ho mantenuto una buona postura. Ora che la bimba è nata, la prendi in braccio e la schiena si fa sentire. Che posso fare? Professor Melegatti. Intanto bisognerebbe analizzare bene i movimenti che la signora compie. È molto importante evitare di flettere il tronco in avanti e per esempio sollevare il bimbo a braccia tese. È sempre bene cercare di sollevare il bimbo tenendolo il più vicino possibile al proprio corpo e utilizzare le gambe per flettersi e per alzarsi piuttosto che flettersi in avanti con il tronco. Questa è una delle cose da fare. Poi valutare un attimo anche determinate situazioni, come per esempio evitare di stare troppo fermi durante la giornata, cambiare spesso posizione. Per una mamma è importante questo. Le mamme non stanno mai ferme, però il mal di schiena l'ho risolto con l'osteopatia e il Reiki, ma nessuno parla di medicina alternativa, ci scrive Anna da Rivoli. Noi invece ne vogliamo parlare. Professor Di Domenica. Ma io direi che le medicine sono tutte uguali, purché abbiano una validità scientifica. Perché chiamarle alternative? Se sono medicine che hanno una base valida, scientificamente provata, va certo. Bene, rientra nella medicina normale. Io posso dire quella che è la mia esperienza. L'osteopatia si sta affermando, diciamo che stanno anche lavorando da un punto di vista di ricerca scientifica, dà dei buoni risultati. L'unica cosa che mi sento di dire è che è molto operatore dipendente, cioè bisogna trovare la persona brava, competente, che sappia valutare bene qual è il problema e quindi agire. Ma per il resto, se lei mi dice poi l'agopuntura, parliamo di agopuntura, anche l'agopuntura sul dolore ha la sua efficacia, però se lei non fa qualcosina per modificare la causa per cui è venuto il mal di schiena, lei fa una terapia antidolorifica ma poi ci ritorna dentro. Non so se mi spiego. Sì, si è spiegato molto bene. Andiamo a Bergamo, ci aspetta Franco 824 0024, vediamo come sta la sua schiena. Franco, buongiorno. Pronto, buongiorno e grazie di avermi richiamato. Grazie a lei. Volevo Franco. Dire, da un fortissimo mal di schiena sono passato a un fortissimo dolore sul fianco destro che si trasferisce su tutta la gamba fino al tallone. Ho fatto delle terapie antidolorifiche, ma il problema non l'ho mai risolto. Chiediamo al professor Melegatti se può darle una mano. Grazie Franco. Certo. Da quanto tempo ha questo dolore, signor Franco? Ha messo giù. Ecco, questo Franco ci sta ascoltando. Allora, bene, proviamo a vedere quanto conta il tempo di dolore. È importante sapere anche, innanzitutto, da quanto tempo questo dolore c'è, perché se c'è da più di un mese la cosa comincia a diventare un po' più preoccupante. Bisogna capire bene dov'è la localizzazione del dolore, da dove è partito, se è un dolore che trae beneficio dal riposo oppure se è un dolore che trae beneficio dal movimento. La sensazione è che il signor Franco possa aver avuto un problema discale, vale a dire un problema acuto a livello del disco, che potrebbe essere erniato e potrebbe avere compresso la radice nervosa. Da lì il dolore alla gamba. Da lì il dolore alla gamba, al gluteo e poi fino a giù. Professore, lei ha detto a seconda se bisogna vedere se il dolore trae vantaggio dal movimento, certo, o dal riposo. Che cosa possiamo dire? Così diamo subito delle indicazioni. Esistono delle patologie che sono prevalentemente patologie infiammatorie, che possono essere su base reumatica, per le quali il paziente ha dolore di notte, quindi ha dolore stando a letto, a riposo, mentre il movimento gli provoca beneficio. Allora, questo è uno dei fattori che ci permettono di discriminare tra queste patologie su base infiammatoria, che devono essere aggredite dal punto di vista farmacologico e con degli esami approfonditi, da delle patologie invece a livello del disco, oppure da delle patologie muscolari, che sono quelle che con il movimento non migliorano. Soffro di mal di schiena da sempre, devo acquistare il materasso, potete darmi un consiglio per l'acquisto? E così, rispondendo a questo ascoltatore, rispondiamo anche ad alcuni ascoltatori che mi hanno scritto: mi viene sempre di notte il mal di schiena e allora do sempre la colpa al materasso. Professor Di Domenica. Sì, questo è molto diffuso, cioè molti si lamentano di pazienti che vengono da noi: la mattina mi alzo, sono stanco, e sicuramente questo può dipendere dal tipo di materasso o anche dal tipo di rete che si usa. Sì. Mentre una volta eravamo decisi tutti a dire rete rigida, letto rigido, adesso noi ridiscutiamo anche questa situazione, perché non è sempre detto che dormire sul rigido poi faccia bene alla schiena. Ma ci è venuto incontro anche, diciamo, l'attività commerciale. Adesso ci sono in commercio dei materassi molto validi, non mi viene il nome adesso, di lattice, bravo, scusate, mi avete aiutato, che vanno benissimo, e quindi con una rete adeguatamente rigida, con dei materassi di lattice, va bene, si può, diciamo che possiamo trarne beneficio. Poi può dipendere anche dal modo in cui si dorme. Bravo, perché... e questo volevo chiederle, certo, perché a seconda della posizione uno si sente al mattino un pochino più incriccato, usare questo termine che non è italiano ma rende, professor Di Domenica. Sì, questo è vero, per esempio dormire a pancia in giù, proni per intendersi, sicuramente in certe situazioni di patologia della colonna questa è una posizione può creare dolore, oppure usare dei cuscini troppo alti o troppo bassi. Quindi meglio la pancia in su, professor Melegatti? No, direi di no, direi meglio sul fianco. La posizione migliore è quella proprio sul fianco, con le ginocchia leggermente flessa. Ci sono pazienti invece che stanno bene dormendo a pancia in su, magari con un piccolo cuscino sotto le ginocchia. Vediamo come dorme Giovanni, che ci chiama da Padova. 800 24 00 24. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno, ringrazio lei e il professore. Giovanni, lei come dorme, scusi, tanto per farmi un po' i fatti suoi, ecco. Sì, io dormo sul fianco. Sul fianco, quindi Giovanni è promosso. Però? Però, girando la pancia in giù, delle sere mi trovo molto bene, alla mattina. Sì. Ecco, però io sono stato operato 2 volte alla schiena. Cosa aveva? Il mio discale. Adesso ultimamente il professore mi ha detto che come intervento, il terzo intervento, aspettiamo di farlo, perché Secondo lui la cicatrice delle operazioni è quella che mi dà disturbo. Però Giovanni, lei è ancora male. Rapidamente, perché sì, noi abbiamo i mercati, così il professor Melegati le risponde. Io ho fatto terapia di dolore prima con il cortisone, poi mi ha dato della morfina, però una volta smesso mi torna il dolore. Però adesso io ho trovato un altro rimedio. Volevo chiedere al professore se... Sì. Se ci sono delle complicazioni, e mettendo un panno sulla schiena, sì, per mezz'ora al giorno con dell'aceto bianco, trova giovamento. Giovanni, grazie. Professor Melegati, su questo aspetto torneremo. Sono tanti i nostri ascoltatori che mi dicono: sono stato operato di ernia del disco, oppure va operata sempre, è vero che la lista d'attesa è la migliore cura per l'ernia del disco. Ma per rispondere a Giovanni, che ha trovato questo rimedio casalingo che funziona per lui, che cosa si può dire? Deve fare riabilitazione, forse? Io dico che probabilmente il problema del signor Giovanni è un problema che si è un po' cronicizzato, è un problema degenerativo a livello di quel disco intervertebrale che è stato operato. Non ho nulla in contrario contro il rimedio che sta utilizzando il signor Giovanni, anche perché probabilmente la posizione durante la quale lui mette questo panno potrebbe addirittura lei stessa essere vantaggiosa. Comunque, al di là delle battute, avrebbe bisogno il signor Giovanni di un recupero funzionale ben organizzato, magari in acqua. Sì, quindi una riabilitazione, una fisioterapia che prevede terapie fisiche ma anche esercizio controllato. Quindi alla nostra schiena piace il movimento, naturalmente sì, deve essere un movimento a misura della nostra schiena. Eccoci, siamo tornati insieme, pronti per occuparci della nostra schiena. 800 24 0024. Professor Melegati, abbiamo detto che è un sintomo il mal di schiena, sì, abbiamo detto di non preoccuparci troppo, che può essere un attacco acuto, può anche poi il mal di schiena diventare cronico, vedremo come avviene questo, se ci sono dei fattori di rischio certo. Ma io volevo chiederle quando il nostro dolore deve spingerci a consultare il medico? Cioè, ci sono mal di schiena e mal di schiena, ci sono tipi di dolore un po' più a rischio di altri, quali possono essere? Certo, beh, innanzitutto il dolore a cui accennavo prima, vale a dire il dolore persistente notturno, quello che trae beneficio dal muoversi nel letto o dal magari semplicemente alzarsi dal letto e fare una camminata e tornare a letto, quel dolore lì va indagato meglio, perché potrebbe essere, come avevo detto, un problema legato a una infiammazione, a una patologia reumatica. Un altro dolore che deve creare sospetti è un dolore irradiato lungo la gamba che arriva giù fino al piede, che è associato, che può essere associato anche a una debolezza muscolare. Quindi quando il paziente non riesce ad avere un cammino normale, per esempio il piede cascante, beh, quello è il momento di consultare uno specialista, perché potrebbe essere un'ernia compressa, un'ernia del disco che comprime la radice nervosa. Un'altra situazione è un dolore acuto a seguito di un evento sportivo, magari dopo un trauma. Dobbiamo ricordare bene che il dolore alla schiena può anche dipendere da un problema viscerale, vale a dire da un dolore che proviene dagli organi interni, quindi a seguito di un trauma, di un incidente stradale, deve essere sempre indagato questo mal di schiena eventuale con una visita clinica e degli esami strumentali. A proposito di esercizio fisico, due mamme mi hanno scritto, una è la mamma di un ragazzo che gioca a pallone, l'altro invece gioca a football americano. Tutte e due i ragazzi dopo l'allenamento accusano mal di schiena. Professor Di Domenica, lei come genitore cosa farebbe? Aspetterebbe che il dolore passasse da solo, oppure invece farei che il mal di schiena di un adolescente o di un diciamo giovane secondo me va indagato, perché se hanno mal di schiena può essere sì eccesso di fatica o un allenamento protratto per molto, però un mal di schiena in un ragazzo io lo farei vedere. Lo farebbe sempre vedere. Antonio ci chiama da Taranto, non so se è un ragazzo, non credo. Buongiorno Antonio. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Ci racconti? Senta, no, io brevemente, perché che sarebbe troppo lunga, da età 59 anni, da più di 30 anni faccio ore e ore di macchina al giorno per motivi di lavoro, problemi della schiena tutti quanti, a partire dalla cervicale a finire alla lombo sacrale. E niente, ho sempre fatto molti sport, negli ultimi 20 anni diciamo palestra, ultimamente mi hanno proibito tutto. Perché c'è stato un problema alla zona lombosacrale, praticamente un dolore che si va a irradiare dalla natica fin giù dietro al ginocchio, sì. Diciamo, si ferma lì. E ho fatto varie terapie, all'ortopedico, all'osteopata, al chiropratico, massaggi. Insomma, le ha tentate di tutte, però alla fine il dolore, lei continua ad andare in macchina e continua ad avere dolore, Antonio. Sì, è migliorato un tantino, devo dire la verità, adesso però... riesco a stare, però periodicamente mi prende e comincia a tirare qui sul lato, diciamo. E si ripresenta. Professor Melegatti, Antonio ci ha descritto il suo quadro. Gli hanno addirittura vietato di fare qualunque attività, nonostante lui facesse, si muovesse proprio, certo. No? Anche un po' seguendo le raccomandazioni che si leggono e si sentono. Le avete dette anche voi che l'esercizio fisico aiuta la schiena. L'esercizio fisico decisamente aiuta, però deve essere un esercizio, come diceva prima il professor Domenica, specifico, controllato. Il problema del signor Antonio è una vera e propria malattia professionale, legata probabilmente a tutti gli anni di postura fissa in macchina. Il consiglio che posso dare al signor Antonio è quello di più possibile cercare di cambiare posizione anche in macchina, fermarsi spesso, non rimanere in auto per più di un'ora, dopo un'ora scendere dall'auto, fare due passi e poi ritornare su, rivedere un po' il sedile, se è troppo basso, se fa fatica a entrare in macchina o a uscire dalla macchina, magari l'accorgimento di mettere un piccolo cuscino a livello del rachide lombare, proprio appoggiato allo schienale della poltrona dell'auto. Questi accorgimenti, professore, servono anche per chi ormai convive con il mal di schiena da anni, cioè modificando queste piccole cose si riesce ad avere un po' di sollievo? Sì, decisamente sì. Non è mai troppo tardi? No, non è mai troppo tardi, si può gestire meglio. Andiamo a Modena, ci aspetta Elio, buongiorno. Buongiorno dottoressa Carbone. E volevo fare una domanda rapida e semplicissima. E questa mia moglie è caduta con un acuto accidentale, scivolata, sì. Ha battuto il coccide, sì. E naturalmente ha fatto, che dolore, la radiografia, e la radiografia non è emerso assolutamente nulla, però avendo lei già una colonna vertebrale con scoliosi, sì. E quindi volevo sapere dal vostro medico, dal vostro, sì, consulente, cosa si può fare, cosa deve fare. Bravissima, grazie, grazie Elio. Professor Di Domenica, sì, ho sentito, male? Non si possono fare domande, è la prima volta probabilmente che la signora ha avuto questa lombalgia in seguito a un trauma. Ora, se gli esami sono negativi, quindi non c'è una subluxazione del coccige o men che meno frattura del coccige, potrebbe, vista che la signora, se ho capito bene, aveva già una scoliosi, sì, in passato, da queste potrebbe trarre beneficio dalle tecniche di rieducazione posturale globale, si chiamano. Sì, un nome difficile per dire che cosa, sì, professore. Per dire cosa, di fare una ginnastica basata sullo stretching, sul controllo propriocettivo, sulla respirazione, sul controllo del bacino. Sono tecniche che vanno dal Suchard, Mézière, Pilates, sono tutte valide, però lei potrebbe trarre beneficio da questo tipo di ginnastica, oppure come sport il nuoto. Il nuoto. Perché altro non mi sento attualmente di consigliare. È sicuramente molto fastidiosa la coccicodinia, è anche difficile da curare. Sì. Noi fastidiosa vuol dire molto dolorosa, vero? Sì, è vero. Cioè, perché voi usate questi eufemismi, ma bisogna provarle. Non che ve le auguri, no. Ma voglio dire, però sono dolori. Certo. Professor Melegatti, voleva aggiungere qualcosa? Il professor Di Domenica diceva, ad esempio, anche tecniche come Pilates, che tra l'altro è molto di moda in questo periodo, certo. No? Direi che sono tutte tecniche molto valide, proprio molto specifiche, azzeccate per questo tipo di patologia. Si potrebbe aggiungere anche magari qualche terapia fisica innovativa come la Tecar terapia o una laser terapia, giusto per a scopo antalgico. Sì, quindi quando anche abbiamo molto dolore possiamo utilizzare queste tecniche? Sì, certamente sì. Non dobbiamo aspettare che passi? No, direi di no. Meglio di no. E poi è sempre il paziente che sente, che sa quando il dolore è un dolore che può essere gestito oppure che è il momento di farsi vedere. Roberto ci chiama da Verona all'824-0024. Roberto, buongiorno e benvenuto. È caduto. E Mario invece ci aspetta da Milano. Buongiorno Mario. Sì, salve. Buongiorno. Volevo sapere, io soffro di ernia del disco al tratto L5S1. Volevo sapere se esercizi agli addominali sono raccomandati. Lei li fa, Mario? Chiaramente assistiti con degli attrezzi per evitare di magari sforzare male la schiena. Senta Mario, lei li fa questi esercizi? Non ancora, ho comprato l'attrezzo ieri. Ha comprato l'attrezzo l'altro ieri. Allora, a disposizione due esperti, sentiamo il parere del professor Di Domenica e poi quello del professor Melegatti. Professor Di Domenica. Ma io direi che sotto controllo non ci sono rischi. Bisogna fare utilizzare questa tecnica, diciamo, del rinforzo addominale, come dicevo prima, però sotto controllo e non in fase acuta. Cioè, se lui ha una sciatica in atto, bisogna stare attenti, perché questo potrebbe riacutizzare il problema. Quindi controllato si può fare, ma in fase di remissione di dolore, insomma. Ed è bene che si faccia un po' guidare all'inizio? Sicuramente sì. Sicuramente sì, perché si possono commettere degli errori. E comunque vale sempre la legge del il dolore ti deve fermare, cioè qualsiasi esercizio uno faccia, se sente male non deve insistere. Quindi il dolore è il limite di quello che possiamo fare anche. Il dolore blocca, ma il dolore insegna. Roberto da Verona, buongiorno. Sì, salve. Dove era finito Roberto? Grazie per avermi richiamato. Sì? Io avevo due curiosità, anzi una curiosità e una domanda. Sì. La curiosità è quella... Inizi con la curiosità, che poi spari la curiosità, che poi noi andiamo a sentire il traffico e poi... Il primario di ortopedia che ha visualizzato la mia risonanza magnetica ha detto che io ho una discopatia, ma non è riuscito a passarmi bene il concetto della differenza tra discopatia e ernia al disco. Ecco, siamo pronti, Roberto, professor Melegatti, che differenza c'è tra una discopatia e un'ernia? Che cosa si deve fare? Ma intanto, per discopatia è un termine generico che indica la sofferenza del disco intervertebrale, che è il cuscinetto che sta tra vertebra e vertebra e funge da ammortizzatore. Quando questo cuscinetto perde la sua capacità di ammortizzare e di distribuire i carichi, si parla di discopatia. Il disco è ridotto di altezza spesso. L'ernia del disco è una patologia precisa del disco intervertebrale, è la fuoriuscita della porzione più interna del disco intervertebrale in una certa zona del canale midollare fino a spesso comprimere una radice nervosa, e quella è una patologia acuta che dà un dolore lungo la gamba e spesso anche altri sintomi. Come professor Di Domenica, nel caso della discopatia, ci dia qualche indicazione pratica per chi invece si ritrova nella situazione diversa, ernia, che cosa si deve fare? Bello. La discopatia, come diceva Gianluca, io dico sempre che a una certa età si fa una radiografia e una discopatia non si lega a nessuno, perché proprio è un invecchiamento quasi fisiologico. Cioè, bene, meno male allora. Ecco. In questi casi vale sempre il discorso che abbiamo fatto tutta stamattina, cioè un buon esercizio fisico è sicuramente la profilassi migliore, perché non si verifichi poi una crisi di lombalgia. Sì. Quindi nella discopatia assolutamente controllo del peso, evitare posizioni sul lavoro specialmente scorrette, e la ginnastica, per intenderci, sì, a trovo vantaggio. Sull'ernia del disco bisogna fare un altro discorso, cioè l'ernia del disco è un incidente acuto, cioè dolore violento, irradiazione al lato inferiore con associati deficit magari muscolari. In questo caso un approccio, a mio parere, di farmacologico, sì, che vada ai fans, togliere un po' il dolore, cortisonici e così via. Dopodiché valutare bene, in base ad esami strumentali, risonanza, TAC, esame elettromiografico, se c'è un'indicazione chirurgica, che qualche volta, diciamo, anche molto minima come indicazione in questi tempi, però può esserci. Può esserci. Se non c'è l'indicazione chirurgica, si ritorna all'approccio fisioterapico riabilitativo con trazioni, terapia fisica, come diceva Gianluca, e kinesiterapia. Però va distinta in questo caso la fase acuta dalla fase post-acuta, diciamo, subacuta. Roberto, lei ha detto che aveva un'altra domanda? Sì, la domanda era appunto il consiglio del primario, come giustamente dicono i professori che stanno rispondendo alle domande, era l'attività fisica, dovendo scoprire quale fosse l'attività fisica che non mi dava fastidio e mi suggeriva il nuoto. Io da 3 anni vado intensamente a nuotare, con intensamente intendo dire che ho evitato la palestra, sì, e con il nuoto, dandocene dentro, come si dice in gergo, sì, ho sentito proprio degli effetti benefici. Probabilmente effettivamente gli addominali che si tirano sostengono di più tutta la cassa toracica e alleggeriscono il carico della zona lombare, perché il problema evidentemente si manifesta di più nella zona lombare, mi pare di aver capito, anche generalmente parlando, per un po' per tutte le persone. Quindi anch'io sto diverso tempo seduto in macchina e quindi ho visto proprio degli effetti benefici. Quindi, la domanda sì? Era proprio a questo livello, cioè è possibile che con l'attività fisica eccetera di questa esplosione, chiamiamola così, che fa in fuori il disco possa anche rientrare? Quindi un'attività fisica che sia terapeutica anche? Certo, è possibile. Il disco perde contenuto d'acqua nel tempo e se viene ben gestito il racchide, come per esempio con il nuoto dove c'è assenza di carico, si può anche risolvere il problema, anche definitivamente. Quindi insistere e farsi guidare. Esatto. Allora, ricapitolando, ecco i consigli per occuparci della nostra schiena. Andiamo. Quando stai in piedi, metti un piede avanti all'altro e tieni le ginocchia leggermente piegate. È la posizione migliore per non sovraccaricare la schiena. Quando ti siedi, cerca di tenere le ginocchia appena più alte delle anche. In questo modo la tua schiena avrà un buon supporto. Non stare seduto in macchina o alla scrivania per più di un'ora. Cambia posizione, cammina, usa sedie con i braccioli e quando ti alzi e ti siedi, evita movimenti bruschi. Se devi spostare cose pesanti, ricordati che spingere è meglio che tirare e comunque, nel caso, fatti aiutare. Se non trovi nessuno a darti una mano, inginocchiati, afferra l'oggetto con entrambe le braccia e mantienilo vicino al tronco, poi sollevati facendo forza sulle gambe. Dividi la spesa, 2 borse, meglio di una. A letto evita la posizione supina, che esercita una pressione sulla schiena. Nel caso non ti fosse possibile, metti 2 cuscini sotto le ginocchia e dimezzerai la pressione. Oppure dormi su un fianco con un cuscino tra le ginocchia. Allora, con questi consigli che riportiamo anche sul nostro sito, la nostra schiena dovrebbe stare un po' meglio. Professor Melegatti, intanto la ringrazio per essere stato qui con noi, per averci dato delle indicazioni. Ringrazio anche il professor Di Domenica per grazie tutte le indicazioni. Grazie a lei. Insomma, mi sento anch'io la schiena un pochino più sollevata, ma torneremo a parlare di schiene, di mal di schiena. Intanto buona giornata. Anche grazie. A lei, grazie. Allora, la schiena l'abbiamo sistemata, adesso ristoriamoci con un buon succo, ma proviamo a scegliere quello più adatto a noi. C'è succo e succo e la differenza non riguarda solo il sapore, quindi ho chiesto al dottor Temporin, nutrizionista e specialista in igiene e medicina preventiva, di venire a prendere per tutta la settimana in chiusura di trasmissione un aperitivo da noi e di portarci un succo diverso per un po' presentarcelo in tutta la sua bontà. Dottor Temporin, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Nicoletta. Dottor Temporin, questo è un portateco, quindi lei che succo ci ha portato? Allora, io oggi avrei portato il succo di mela, perché è un succo molto gustoso ed è un succo dolcissimo, ricchissimo di zuccheri, facilmente assimilabile, molto digeribile ed è un succo particolarmente indicato nell'età infantile e pediatrica. Infatti, come noi vediamo, la mela è tra i primi frutti che vengono inseriti nello svezzamento dei bambini, in quanto la mela ha delle ottime proprietà, è efficace nei disturbi intestinali, nelle coliti. Addirittura un recente studio inglese ha evidenziato che bambini che assumono quotidianamente il succo di mela hanno una minor possibilità di sviluppare asma rispetto a bambini che non lo assumono. C'è un momento della giornata particolare in cui è meglio assumere il succo, al mattino, a merenda? Sicuramente il succo di mela è ottimo se viene assunto lontano dai pasti, quindi sì, come spuntino e assieme appunto ad altri alimenti come possono essere dei carboidrati, oppure deve essere assunto anche a colazione. Le proprietà del succo di mela che lei ha sottolineato, quindi molto indicato per i bambini, vanno anche bene per gli adulti naturalmente? Vanno benissimo per gli adulti e soprattutto anche per gli sportivi, perché se vogliono una bevanda ricca di zuccheri facilmente assimilabili, quale il fruttosio, ma molto digeribile, il succo di mela rimane al top per questa scelta. Dottor Temporin, guardiamo un attimo l'etichetta. Allora, la cosa importante, soprattutto se noi guardiamo i bambini, ma non dobbiamo escludere questo anche per gli adulti, che il succo sia di buona qualità, quindi non abbia zuccheri aggiunti, che sia un prodotto, se possibile, derivato da agricoltura biologica e quindi possa avere un'integrità di tutto quello che è l'estrazione della frutta senza avere ovviamente sostanze quali pesticidi o altro. Una volta aperto si conserva in frigorifero? Sì, in quanto viene conservato di solito l'apertura, c'è il classico rumore del click del bottone che era il sottovuoto, quindi poi va messo in frigorifero, e c'è da dire che soprattutto d'inverno è utile anche consumarlo caldo, magari accompagnato da una buona fetta di strudel, che è eccezionale. Magnifico, noi domani allora ci sentiamo per un altro succo, dottor Temporin, grazie. A lei Nicoletta, saluti. E buona giornata a voi che ci avete ascoltato, io vi do come sempre appuntamento domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.